Terzo anello, ad alta voce. Il deserto dei Tartari, di Dino Buzzati. Perché, adesso che era finita la strada, gli stranieri erano scomparsi? Perché uomini, cavalli e carri avevano risalito la grande pianura fin dentro le nebbie del nord? Tutto quel lavoro per niente. Effettivamente, le squadre dei terrazzieri furono viste allontanarsi ad una, fino a ridiventare minuscoli puntini, visibili soltanto con il cannocchiale, come 15 anni prima. La via era aperta ai soldati. Avanzasse l'armata adesso ad assaltare la fortezza Bastiani. L'armata invece non fu vista avanzare. Attraverso il deserto dei Tartari rimaneva solo la striscia della strada, singolare segno di ordine umano nell'antichissimo abbandono. L'armata non scese all'assalto. Tutto parve lasciato in sospeso, chissà mai per quanti anni. Così la pianura rimase immobile, ferme le nebbie settentrionali, ferma la vita regolamentare della fortezza. Le sentinelle ripetevano sempre i medesimi passi, da questo a quel punto del cammino di ronda. Uguale il brodo della truppa, una giornata identica all'altra, ripetendosi all'infinito, come soldato che segni il passo. Eppure il tempo soffiava. Senza curarsi degli uomini, passava su e giù per il mondo, mortificando le cose belle, e nessuno riusciva a sfuggirgli. Nemmeno i bambini appena nati, ancora sprovvisti di nome. Anche il volto di Giovanni cominciava a coprirsi di pieghe. I capelli diventavano grigi, il passo meno leggero. Il torrente della vita lo aveva gettato oramai da una parte, verso i gorghi periferici, benché in fondo non avesse neppure 50 anni. Drogo naturalmente non faceva più servizio di guardia, ma aveva un ufficio proprio al comando, attiguo a quello del tenente colonnello Ortiz. Quando calavano le tenebre, lo scarso numero degli uomini di guardia non bastava più a impedire che la notte si impadronisse della fortezza. Vasti settori di mura erano incustoditi e di là penetravano i pensieri del buio, la tristezza di essere soli. Come una sperduta isola era infatti il vecchio forte, attorniato da territori vuoti. A destra e a sinistra le montagne, a sud la lunga valle disabitata e dall'altra parte la pianura dei Tartari. Rumori strani, come non mai, risuonarono nelle ore più alte attraverso i labirinti delle fortificazioni e il cuore delle sentinelle si metteva a battere. Da un'estremità all'altra delle mura correva ancora il grido «Allerta! Allerta!», ma i soldati facevano grande fatica a trasmetterselo, tanta distanza separava l'uno dall'altro. Drogo assistette in quei tempi alle prime angustie del tenente Moro, come a una fedele riproduzione della propria giovinezza. Anche Moro da principio era rimasto spaventato, era ricorso al maggiore Simeoni, che sostituiva in un certo modo il Matti. Era stato persuaso a rimanere 4 mesi, aveva finito per restare invischiato, e anche Moro si era messo a guardare con troppa insistenza la pianura del nord, con la sua strada nuova e inutilizzata da cui scendevano le speranze guerriere. Avrebbe voluto parlargli, Drogo, dirgli di stare attento, di andarsene finché era in tempo, tanto più che Moro era un ragazzo simpatico e scrupoloso. Ma qualche stupidaggine interveniva sempre a impedire il colloquio e, del resto, sarebbe stato probabilmente tutto inutile. Cadendo l'una sull'altra le pagine grigie dei giorni, le pagine nere delle notti, aumentava in Drogo ed Ortiz, e forse anche in qualche altro vecchio ufficiale, l'affanno di non fare più in tempo. Insensibili alla rovina degli anni, gli stranieri non si muovevano mai, come se fossero immortali, e non gli importasse di sprecare per gioco lunghe stagioni. La fortezza invece conteneva poveri uomini, indifesi contro il lavoro del tempo e il cui termine ultimo si avvicinava. Date che una volta erano parse inverosimili da tanto lontane, si affacciavano ora improvvisamente al vicino orizzonte, ricordando le dure scadenze della vita. Ogni volta, per poter continuare, bisognava farsi un sistema nuovo, trovare nuovi termini di paragone, consolarsi con quelli che stavano peggio. Fino a che pure Ortiz dovette andare in pensione e nella pianura del nord non si scorgeva il minimo indizio di vita, neppure un minuscolo lume. Il tenente colonnello Ortiz diede le consegne al nuovo comandante Simeoni, riunì la truppa nel cortile, eccettuati naturalmente i drappelli in servizio di guardia, tenne con stento un discorso, montò sul proprio cavallo, con l'aiuto dell'attendente, e uscì dalla porta della fortezza. Un tenente e due soldati gli erano di scorta. Drogo lo accompagnò fino al ciglione della spianata, dove si salutarono. Era il mattino di una grande giornata estiva. Nel cielo passavano nuvole, le cui ombre macchiavano stranamente il paesaggio. Sceso da cavallo, il tenente colonnello Ortiz stette in disparte con Drogo, ed entrambi tacevano, non sapendo come darsi l'addio. Poi uscirono parole stentate e banali, quanto diverse e più povere da ciò che essi avevano in cuore. «Per me adesso cambia la vita», disse Drogo. «Vorrei venire via anch'io, quasi. Ho quasi voglia di dare le dimissioni», Ortiz disse. «Tu sei ancora giovane. Sarebbe una stupidaggine. Tu farai ancora in tempo. In tempo a che cosa? In tempo per la guerra. Vedrai. Non passeranno 2 anni». Così diceva, ma in cuor suo sperava di no. In realtà egli si augurava che Drogo se ne tornasse come lui senza aver avuto la grande fortuna. Gli sarebbe parsa una cosa ingiusta. E sì che per Drogo aveva amicizia e gli desiderava ogni bene. Ma Giovanni non disse niente. «Vedrai, non passeranno 2 anni. Effettivamente», insistette allora Ortiz, sperando di essere contraddetto. «Altro che 2 anni», fece finalmente Drogo. «Dei secoli passeranno, e non basta. Oramai la strada è abbandonata dal nord. Non verrà più nessuno». E benché queste fossero le sue parole, la voce del cuore era un'altra. Assurdo, refrattario agli anni, si conservava in lui, dall'epoca della giovinezza, quel fondo presentimento di cose fatali, una oscura certezza che il buono della vita fosse ancora da cominciare. Tacquero ancora, accorgendosi che quel discorso li andava separando. Ma che cosa potevano dirsi? Vissuti insieme quasi 30 anni fra le stesse mura, con i medesimi sogni. Le loro 2 strade, dopo tanto cammino, ora si dividevano. Una di qua e una di là. Si allontanavano verso paesi ignoti. «Che sole!» disse Ortiz e guardava, con gli occhi alquanto appannati dall'età, le mura della sua fortezza da abbandonare per sempre. Esse apparivano sempre le stesse, con l'identico colore giallastro e il loro volto romanzesco. Ortiz le guardava intensamente e nessuno fuori che Drogo avrebbe potuto indovinare quanto soffrisse. «Fa caldo davvero», rispose Giovanni, ricordandosi di Maria Vescovi, di quel lontano colloquio nel salotto, mentre scendevano melanconici gli accordi del pianoforte. «Una giornata calda, effettivamente», aggiunse Ortiz, e i 2 si sorrisero. Un istintivo cenno di intesa, come per dire che conoscevano bene il significato di quelle stupide parole. Ora una nuvola li aveva raggiunti con la sua ombra. Per qualche minuto l'intera spianata divenne scura e balenò, per contrasto, il sinistro splendore della fortezza, ancora immersa nel sole. 2 grandi uccelli roteavano sopra la prima ridotta. Si udì lontano, quasi impercettibile, un suono di tromba. «Hai sentito? La tromba?» disse il vecchio ufficiale. «No, non ho sentito», rispose Drogo, mentendo, poiché sentiva vagamente di fare così piacere all'amico. «Forse mi sarò sbagliato. Siamo troppo distanti, effettivamente», ammise Ortiz, tremandogli la voce, e poi aggiunse con fatica: «Ti ricordi la prima volta, quando sei arrivato qui e ti sei spaventato? Non volevi rimanere, ti ricordi?» Drogo riuscì a dire soltanto: «Molto tempo fa». Un curioso nodo gli chiuse la gola. Poi Ortiz disse ancora una cosa, dopo essere corso dietro ai suoi pensieri. «Chi lo sa», disse, «forse in una guerra potevo servire. Può darsi che riuscissi utile in una guerra, e per il resto 0, come si è visto». La nube era passata via. Aveva già oltrepassato la fortezza. Ora scivolava attraverso la desolata pianura dei Tartari, sempre più a nord, silenziosa. «Addio, addio». Ritornato il sole, i 2 uomini di nuovo facevano ombra. I cavalli di Ortiz e della scorta, 20 metri più in là, battevano con gli zoccoli sulle pietre a significare impazienza. Si volta pagina. Passano mesi ed anni. Quelli che furono i compagni di scuola di Drogo sono quasi stanchi di lavorare. Essi hanno barbe quadrate e grigie. Camminano con compostezza per le città, salutati rispettosamente. I loro figli sono uomini fatti. Qualcuno è già nonno. Gli antichi amici di Drogo, sulla soglia della casa che si sono costruita, amano adesso soffermarsi a osservare, paghi della propria carriera, come corre il fiume della vita e nel turbine della moltitudine si divertono a distinguere i propri figli, incitandoli a fare presto, sopravanzare gli altri, arrivare per primi. Giovanni Drogo invece aspetta ancora, sebbene la speranza si affievolisca ad ogni minuto. Adesso sì, egli è finalmente cambiato. Ha 54 anni, il grado di maggiore e il comando in seconda del magro presidio della fortezza. Ha cominciato a dimagrire, il volto si è fatto di un tristo colore giallo, i muscoli si sono afflosciati. Disturbi di fegato, diceva il dottor Rovina, oramai vecchissimo, determinato ostinatamente a finire lassù la vita. Ma le polverine del dottor Rovina non ebbero effetto. Giovanni al mattino si svegliava con una scoraggiante stanchezza che lo prendeva alla nuca. Seduto poi nel suo ufficio, non vedeva l'ora che la sera arrivasse per poter gettarsi su una poltrona o sul letto. «Disturbi di fegato aggravati da esaurimento generale», diceva il medico. «Ma stranissimo era un esaurimento con la vita che faceva Giovanni». Comunque era una cosa passeggera, frequente a quell'età, diceva il dottor Rovina. Un po' lunghetta, forse, ma senza alcun pericolo di complicazioni. Si innestò così nella vita di Drogo un'attesa supplementare, la speranza della guarigione. Del resto egli non si mostrava impaziente. Il deserto settentrionale era sempre vuoto, nulla lasciava presagire un'eventuale discesa nemica. «Hai proprio un bell'aspetto», gli dicevano quasi ogni giorno i colleghi, ma in verità Drogo non sentiva il minimo miglioramento. Erano sì scomparsi i mal di testa e le penose diarree dei primi tempi. Nessuna specifica sofferenza lo tormentava. Le energie complessive, però, si facevano sempre più fioche. Finalmente, con estremi stenti, cominciò ad affacciarsi la buona stagione. La neve sul valico si era già sciolta, ma nebbie bagnate si attardavano sulla fortezza. Ci voleva un sole potente per scacciarle, tanto intristita dall'inverno era l'aria delle valli. Ma una mattina, svegliandosi, Drogo vide risplendere sul pavimento di legno una bella striscia di sole e sentì venuta la primavera. Si lasciò prendere dalla speranza che al bel tempo corrispondesse in lui una simile ripresa di forze. Anche nelle antiche travi risuscita di primavera un residuo di vita. Di qui gli innumerevoli scricchiolii che popolano quelle notti. Tutto sembra ricominciare da capo. Un fiotto di salute e di gioia si riversa sul mondo. Questo pensava con intensità Drogo, richiamandosi alla mente scritti di illustri autori sull'argomento. Levatosi dal letto, andò barcollando alla finestra. Sentì un principio di capogiro, ma si consolò pensando che sempre succede così quando ci si alza dopo molti giorni di letto, anche se si è guariti. Infatti, il senso di capogiro scomparve e Drogo poté vedere lo splendore del sole. Un'allegria senza limiti pareva diffusa nel mondo. Drogo non la poteva constatare direttamente, perché di fronte c'era il muro, ma la intuiva senza fatica. Perfino quelle vecchie pareti, la terra rossastra del cortile, le panchine di legno scolorite, una carretta vuota, un soldato che passava lentamente, sembravano contenti. Chissà fuori, al di là delle mura. Ebbe la tentazione di vestirsi, di sedersi all'aperto su una poltrona a prendere il sole, ma un sottile brivido gli diede paura, consigliandolo a tornare in letto. «Però oggi mi sento meglio, veramente meglio», pensava, convinto di non farsi illusioni. Quietamente avanzava la stupenda mattina di primavera. La striscia di sole sul pavimento andava spostandosi. Drogo la osservava di tanto in tanto, senza nessuna voglia di esaminare gli scartafacci ammucchiati su un tavolo di fianco al letto. C'era per di più uno straordinario silenzio a cui non facevano danno i rari segnali di tromba né i tonfi della cisterna. Anche dopo la nomina a maggiore, Drogo, infatti, non aveva voluto cambiare di camera, quasi temendo che non gli avrebbe portato fortuna. Oramai i singhiozzi del serbatoio erano divenuti un'abitudine profonda e non gli davano più alcuna noia. Drogo osservava una mosca che si era fermata per terra, proprio sulla striscia di sole. Bestia strana in quella stagione. Chissà come sopravvissuta all'inverno. La osservava camminare con circospezione, quando uno batté alla porta. Era un picchio diverso dai soliti, notò Giovanni. Non era certo l'attendente, né il capitano Corradi, il quale soleva invece chiedere permesso, né alcun altro dei visitatori abituali. «Avanti!» disse Drogo. Si aprì la porta e avanzò il vecchio caposarto prosdocimo, tutto curvo oramai, con uno strano vestito che un giorno doveva essere stato una uniforme da maresciallo. Si fece avanti ansimando un poco, fece un segno con l'indice destro, riferendosi a cosa di là dai muri. «Vengono! Vengono!» esclamò in sordina, come fosse un grande segreto. «Chi vengono?» fece Drogo, stupito di vedere il caposarto così spiritato. «Sto fresco», pensò. «Questo qui comincia le sue chiacchiere e va avanti per un'ora almeno». «Dalla strada vengono, se Dio vuole, dalla strada del nord. Sono andati tutti sulla terrazza a vederli». «Dalla strada del nord?» «Dei soldati. A battaglioni! A battaglioni!» gridava fuori di sé il vecchietto, stringendo i pugni. «Questa volta non ci si sbaglia! E poi è venuta una lettera dello Stato Maggiore per avvertire che ci mandano rinforzi! La guerra! La guerra!» gridava, e non si capiva se fosse anche un poco spaventato. «E si vedono già?» chiese Drogo. «Si vedono anche in senza il cannocchiale?» Si era levato a sedere sul letto, invaso da una tremenda inquietudine. «Per Dio, se si vedono! I cannoni si vedono! Ne hanno già contati 18! E fra quanto potranno attaccare? Quanto tempo ci metteranno ancora? Ah, con la strada fanno presto. Io dico che fra 2 giorni sono qui. 2 giorni al massimo!» «Maledetto questo letto!» si disse Drogo. «Eccomi bloccato qui dalla malattia!» Non gli passò neppure per la mente che Prosdocimo avesse detto una storia. Improvvisamente egli aveva sentito che tutto era vero. Si era accorto che persino l'aria era in qualche modo cambiata, persino la luce del sole. «Prosdocimo», disse con affanno, «va a chiamarmi Luca, il mio attendente, È inutile che suoni il campanello, deve essere giù in maggiorità ad aspettare che gli diano delle carte. Fa presto, ti prego. Vai! Su, svelto, signor maggiore, raccomandò Prosdocimo avviandosi. Non ci pensi più ai suoi malanni. Venga anche lei sulle mura a vedere. Uscì svelto, dimenticando di chiudere la porta. Si udì il suono dei suoi passi allontanarsi per il corridoio, poi ritornò il silenzio. Dio, fammi star meglio, te lo scongiuro, almeno per 6-7 giorni, bisbigliò Drogo senza riuscire a dominare l'orgasmo. Voleva alzarsi subito, ad ogni costo, andare immediatamente sulle mura, farsi vedere da Simeoni, far capire che lui non mancava, che era al suo posto di comando, che avrebbe preso le sue responsabilità come al solito, come se non fosse ammalato. Boh. Un respiro di vento nel corridoio fece sbattere la porta malamente. Nel grande silenzio il rumore echeggiò, forte e cattivo, come risposta alla preghiera di Drogo. E perché Luca non veniva? Quanto ci metteva quell'imbecilla a fare 2 rampe di scale? Senza attenderlo, Drogo scese dal letto e fu colto da un'onda di vertigine, che però lentamente si dissolse. Adesso era davanti allo specchio e guardava spaventato il proprio volto, giallo e consunto. «È la barba che mi fa sembrare così», provò a dirsi Giovanni, e a passi incerti, ancora in camicia da notte, girò per la stanza in cerca del rasoio. «Ma perché Luca non si decideva a venire?» «Bah!» fece nuovamente la porta, agitata dalla corrente. «Che ti prenda il diavolo!» disse Drogo, e si avviò per chiuderla. In quel momento udì i passi dell'attendente che si avvicinavano. Massimo Popolizio ha letto Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati, regia di Anna Antonelli, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.